ministri appunto sono Salvini, come già ricordavi, per cui il nostro ministro dell'interno, poi Fontana, ministro della famiglia e della disabilità e, secondo me, forse ancora più grave, Bussetti, ministro dell'istruzione. Sono tre figure, e tutte e tre riconducibili ovviamente alla Lega, ma più in generale espressione di questo governo. Quello, dicevo, per me è particolarmente grave la presenza di Bussetti, non tanto perché la presenza degli altri due non sia grave, ma perché se Salvini ce lo si poteva aspettare, Fontana ancora di più, nel senso che proviene proprio da questi ambienti che danno vita al World Congress of Feminists, per cui da tutta la campagna della marcia per la famiglia, da tutte le campagne delle sentinelle in piedi contro le unioni civili, eccetera. Ecco, Bussetti, che il ministro dell'istruzione ritenga doveroso, utile e interessante andare a intervenire ad un congresso dove si riuniscono i principali esponenti di tutte le campagne anti-gender che agiscono in Europa e non solo, ecco, questo ci dà anche un'indicazione di quali siano le sue visioni dell'istruzione e della ricerca e delle indicazioni per nulla rose, soprattutto se pensiamo che non nel penultimo ma in quello ancora prima, quindi nel congresso che si è tenuto a Budapest dove ha partecipato anche Orban, pensiamo che lì il risultato subito dopo il World Congress of Feminists è stato la chiusura di gran parte dei corsi di laurea che si occupano di questioni di genere tramite un definanziamento e una forte ingerenza dei ministri del governo all'interno della libertà di ricerca nelle università ungheresi. Quindi se questo è il precedente, è chiaro che la presenza del ministro dell'istruzione non può che essere estremamente preoccupante. Sì, tra l'altro, tra le altre partecipazioni italiane che sono citate tutte sul sito del WCF, insomma, quelli saranno i relatori, c'è anche Gianfranco Amato, che è autore anche lui di diversi libri, diciamo uno di questi è proprio Gender d'istruzione, proprio sull'istruzione tutto. Esatto, lui è proprio uno dei principali esponenti di tutte le campagne che ci sono state in Italia in questi anni contro tutta l'educazione alle differenze, per cui è un'altra figura veramente veramente importante. E l'altra figura che ci tengo a sottolineare è quella di Gandolfini, che insieme a Costanza Miriano, che anche lei andrà, è uno degli ideatori di tutte queste campagne, uno degli ideatori appunto delle sentinelle in piedi, uno dei principali esponenti dei movimenti anti-gender in Italia oggi, per cui, come dire, le presenze sono molto chiare dal punto di vista politico e dal punto di vista di che tipo di provenienza hanno le persone che partecipano a questo congresso. Sì, ecco, ti chiederei se ti viene in mente qualche altro nome che non abbiamo già tirato fuori, diciamo anche poi di quelle che sono le presenze internazionali. Tra l'altro, questo devo dire mi stupisce un pochino, nel senso che io mi aspettavo, andando a vedere il sito, che fosse un pochino più mascherata, diciamo, la natura del congresso, perché di solito, soprattutto quando è istituzionale, in questo caso ci sono patrocini da tutte le parti, quindi è abbastanza istituzionale, sessismo, misoginia, sono abbastanza mascherati, invece in questo caso mi sembra che non lo siano molto, insomma anche nella pagina Chi siamo, anche la presentazione di Brown, che è proprio il presidente dell'Organizzazione Internazionale per la Famiglia, insomma dà da pensare, ecco. Sì, è assolutamente, appunto, come dici, molto molto chiara, nel senso che la loro, appunto, non fanno nulla per mascherarsi. Sì, è molto preoccupante quanto è assolutamente palese questo disegno, se si va sul loro sito, a testimonianza del fatto che non pensano più neanche ci sia necessità di nascondersi. Io ti citerei un altro degli internazionali che si presentano e che ci svela alcune delle origini, insomma, come dire, di questo congresso, che è Dmitry Smirnov, che è un arciprete ortodosso russo, come ci dice il suo nome, ed è uno degli, a noi magari non dice niente così in Italia, però è proprio uno dei religiosi mediaticamente più forti in Russia in questo momento, è a capo di 8 congregazioni moscovite ed è presidente della commissione patriarcale per la famiglia e la maternità della Chiesa ortodossa russa, quindi, come dire, una figura che esprime in qualche modo anche una posizione della Chiesa ortodossa russa. E come molti degli invitati a questo congresso ha rilasciato delle dichiarazioni, te ne cito soltanto una, abbastanza gravi, tra cui dire: omosessualismo è un peccato, reato, esattamente come l'uso di droga, uccidere la gente per strada o rapinare una banca, come dire, mettendo sullo stesso piano cose assolutamente assurde. Ed è un uomo che davvero è preoccupante per la sua presenza, perché, come dicevo, non è un prete qualunque, ma è il presidente della Commissione Patriarcale per la Famiglia, per cui ricopre una carica importante dentro la Chiesa. E questo ci dice anche, appunto, un'altra cosa ancora, che tu giustamente citavi Brown, tra gli ideatori di questo World Congress of Families. Però questo World Congress of Families unisce in maniera assolutamente perversa sia gli Stati Uniti che la Russia, come i due luoghi da cui provengono i principali finanziamenti al congresso, ma poi anche le principali griglie teoriche. In questo senso sono uniti fonde dell'Atlantico che di solito nella storia abbiamo viste divise, e questo appunto è molto preoccupante, perché non solo c'è un impianto ideologico molto chiaro, ma vi sono anche dei finanziamenti molto ingenti e molto importanti. Ecco, proprio sul livello internazionale anche dei rapporti sono stati anche espressi, io qui cito l'IOF, che in realtà è l'organizzazione appunto di Brown, che poi organizza il World Congress of Family, che sul proprio sito ha incensato direttamente con grande entusiasmo sia l'elezione di Bolsonaro e il suo discorso alla presa della presidenza, sia le azioni di Trump. E appunto, dicevamo, è stato 2 anni fa, è stato in Ungheria con Orban, l'anno scorso è stato in Moldavia, denunciata da Amnesty International per la violazione dei diritti umani. Insomma, che cosa ci dice anche a livello di politica internazionale il fatto che quest'anno sia qui in Italia? Sicuramente è significativo, appunto, perché come dicevi, i paesi in cui è stato gli altri anni sono significativi, ed è significativo che quasi per la prima volta avvenga in uno Stato che si dichiara laico e democratico, no? Negli altri paesi aveva, come dire, dei legami con governi che sono stati più volte criticati per la loro violazione dei diritti umani. Quindi, come dire, questo ci fa capire che in qualche modo gli organizzatori di questo congresso ritengono l'Italia in questo momento un luogo accogliente per il loro tipo di politiche, e con un dibattito pubblico tale da appunto poterli accogliere. E questo è molto preoccupante, anche se pensiamo che appunto vi sono delle campagne in atto che travalicano i confini italiani, ma che forse per la prima volta davvero in maniera così massiccia sono entrate all'interno del governo, perché quello che Gandolfini e Costanza Meriano hanno fatto è stato veramente lanciare una campagna per cui lanciare i propri temi all'interno delle formazioni politiche esistenti, principalmente del centrodestra. In Italia lo abbiamo visto con le mozioni contro la 194 che si sono susseguite in numerosi comuni italiani, presentate di volta in volta dalla Lega, dalle liste civiche, da Fratelli d'Italia, da Forza Italia, per cui questi temi si sono diffusi un po' in tutto il centrodestra e hanno nella Lega, come dire, il loro baluardo. E questo appunto ci lega in qualche modo a paesi che hanno una politica molto preoccupante. E se quello che dicevo all'inizio rispetto a Orban e gli effetti di questo congresso sulle politiche, ad esempio sull'istruzione, è vero, per l'Italia è un momento particolarmente critico questo, perché contrastare questo World Congress of Families non significa contrastare solo questi relatori che saranno lì presenti, ma anche dare un segnale forte rispetto alla possibilità davvero di trasformare l'Italia in un paese appunto dove le campagne anti-gender, le campagne omofobe, razziste e securitarie diventano davvero dominanti. E aggiungo un ultimo pezzo: è veramente questa della preparazione del World Congress of Families una campagna globale, perché noi adesso abbiamo parlato principalmente degli esponenti che vengono dall'Europa, ma c'è un grosso contingente di esponenti che provengono dall'Africa, una tra tutti Lucia Kello, che viene dall'Uganda, che ritiene per esempio che l'omosessualità dovrebbe essere perseguita con la pena di morte, una parlamentare ugandese. Questo ci dice appunto qual è il livello globale dell'attacco che le donne, le persone omosessuali e in generale chiunque non si riconosca in queste politiche sta subendo in questo momento. Il fatto che appunto questo congresso venga svolto in Italia significa che in qualche modo viene riconosciuto all'Italia un luogo accogliente davvero per questo tipo di riflessioni. Ecco, tornando diciamo all'elenco lunghissimo di relatori sì, che appunto si trova sul sito, tu citavi Lucia Kello, poi ci sono vari relatori anche africani, mi è sembrato di capire tutti comunque di religione cristiana, comunque, nel sì, senso che questo è il denominatore comune, sì, forse. Questo è il denominatore comune, interessante anche questo nel senso che vi sono varie versioni del cristianesimo, per cui abbiamo Gandolfini, esponente dei neocatecumenali, un fortissima presenza delle varie frange evangeliste, come alcuni di questi ministri che provengono dall'Africa. Abbiamo tutta la Chiesa ortodossa, pensiamo soprattutto alla Russia, abbiamo delle forme altre di protestantesimo che vengono dagli Stati Uniti, quindi una visione molto ampia di cristianesimo, non riconducibile al solo cattolicesimo come lo intendiamo in Italia. E anche questo è assolutamente interessante, cioè la capacità di tessere questi legami attraverso la fede, ma attraverso la fede travalicando le distinzioni all'interno delle varie chiese, cioè superando, come dire, le appartenenze alle varie chiese in nome di quelli che vengono chiamati, no, i valori non negoziabili, i valori condivisi su il rispetto della vita umana dentro, da partire dal feto, su l'avversione alle coppie omosessuali, eccetera. Sì, insomma, il comune denominatore è quello poi citato più volte della cosiddetta famiglia naturale, che non si è capito benissimo che cosa sia, però insomma sembra essere quella il comune denominatore di tutto. A questo punto ti chiederei anche che cos'è secondo te. Il comune denominatore, lo dici bene, è questa idea della famiglia naturale, che è innanzitutto per loro quella composta da un uomo e una donna, no? Da un uomo e una donna uniti da un vincolo sacro e uniti in vista della procreazione. Ma a questo va aggiunto che la famiglia che loro considerano naturale è, e questo ci svela l'assoluta non naturalità di questa famiglia, se ce ne fosse bisogno, è una famiglia nazionale, per cui in Italia sarà una famiglia bianca e italiana, in Russia sarà una famiglia bianca e russa e così via, no? Una famiglia, cioè, capace di farsi veramente retorica contro le migrazioni, contro le società multietniche, contro tutte le contaminazioni che ci possono essere all'interno delle società. Ed è una famiglia astratta, ovviamente, no? Che non ricorda in nessun modo la molteplicità delle famiglie che ci troviamo di fronte, ma semplicemente un dispositivo di controllo, per cui che loro dicono in maniera molto chiara, no? Se la famiglia è la cellula più piccola di una società, dobbiamo agire sulla famiglia per agire poi sulla società nel suo complesso, per cui creare e rafforzare questo tipo di famiglie per creare una società patriarcale, razzista e securitaria. Tornando di nuovo alla lista, ogni tanto prendiamo una pausa anche per necessità, però tornando di nuovo alla lista delle persone presenti, non lo abbiamo citato finora perché forse lo stiamo dando entrambe per scontato, ma sarà presente anche il senatore Pillon. Certo. Sì, Pillon è, ecco, come dire, il campione forse assoluto di questo congresso in questo momento, nel senso che sicuramente il suo disegno di legge rientra perfettamente nei piani di questo congresso, cioè costringere la gente a rimanere insieme anche quando non ci sono più in nessun modo i presupposti, e fare fortissime campagne in nome dell'indissolubilità del matrimonio, anche contro per esempio le situazioni di violenza domestica, no? Che non vengono in nessun modo riconosciute, per cui svelando quanto è violento questo dispositivo della famiglia. Pillon è davvero in questo senso il campione assoluto di questo congresso. Perfetto, ti chiederei se c'è qualche altro personaggio che secondo te non abbiamo ancora citato e che meriterebbe in qualche modo una menzione? No, secondo me quelli più significativi li abbiamo citati, ma invito tutti ad andare sul sito, però citerei solo Novak, ministra proprio dell'Ungheria, che insomma fa un po' da trade union tra Orban e questa edizione di questo congresso, ministra anche lei per la famiglia, una di quelle che sta portando avanti realmente delle campagne molto chiare all'interno del proprio paese e molto vicina a noi e al nostro governo come ideologia e come stile. Perfetto, aggiungo un altro nome che anche questo era praticamente ovvio, che è quello di Federico Sborina, che è il sindaco di Verona, che appunto ospiterà... che ha aperto la sua città a questo congresso, non a caso, nel senso che poi Sborina è, come dire, sostenuto proprio anche all'interno della giunta della città di Verona da questo tipo di istanze.